CQ10, c'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è? Ciao Natali, buonasera. Ma ora è un rapporto, Natali, se c'è alternata sotto. Metti la portante, smutta. Si sente solo la televisione, però alternata non ce n'è sotto. Ah, mica che ho recuperato quella base. Era bene recuperata. Meno male che era qua ancora, la stava per buttare. No, la buttare no. Che guardo c'è muscolare quelle spatole a coso, per attaccare la moletta. Ehi, vabbè, in ovvio. Guarda a vedere se c'è alternata adesso che ho abbassato la TV. Metti la portante fissa. Senza parlare, la portante senza parlare mi. Guarda un po'. Senza validità, Giudizio. No, si sente l'aria della ventola, è buco. Quindi va bene? Eia. Gabagaba. Gabagaba, gabagaba. Da che cinese devo andare a comprare l'antenna dell'autoradio? Ma io l'ho visti da quei cinesi che ci sono in viale Porto Torres. Ma quali però? Allora me ne ammetto, ma ti diciamo, on the ground, i bari. Bricocina, cioè. Lui mi andrà in pari allora. A sabbicare, così era manco, biglio una cosa e vediamo un po'. Se no mi biglio, poi vado a pigliarmi la cosa, come cazzo si chiama, la base magnetica e me la costruisco. Era tutta troppo messa male, capito? È un casino quella lì, ci vuole una di quelle spazzole che ci hanno attaccato le mole in acciaio, vuole tutta pulita e poi rimontata, verniciata. Ma pure senza verniciarla, è solo che anche il magnete è così, capito? Il magnete? Cioè la piastra e il magnete, sono tutti e due così, con tutti e due buriti. Fate dire un lampen di baghizzo. Vabbè Natali, sei riuscito a smontarla, ciao fra. Ciao fra, buonasera. Oh Claudio, guarda se c'ho l'alternata sotto, che ho sistemato quell'alimentatore. Metti la portante. No, va bene. Sei riuscito a smontarla Natali? Sì signore, però è tutta rugginosa, tutta... anche la piastra e il magnete che sono tutte e due rugginose, bisognerebbe passarle o con una spazzola metallica, non lo so, perché se no manco un contatto qua. E lì bisogna che ti avvicini da Roberto e te la fai pulire con la spazzola a rullo, capito? E esce nuova. E vabbè, vediamo un po'. Devo buscarmi il pezzo di sotto per l'antenna, quello che si attacca al cavo. Il pezzo di sotto dell'antenna o si attacca al cavo? Non lo so, cioè io non ho di queste cose, sono tra aiutati. E un bel fra. Allora qua lui praticamente gli serve l'attacco dove c'è la basetta, dove c'è il filo completo, quello gli serve. Quello che ti isola la massa dal polo caldo al polo freddo. Ah, quello che c'ha quel pezzo rotondo che poi entra il bullone in mezzo, quello lì. Pappa si conferma. Vai due gatta, Luiscio. Poi questo alimentatore è un bombò, un gioiellino. Bel sistema, ha messo le luci a posto, tutto quanto, ho cambiato quel condensatore e va benissimo. Ora, 1, 2, 3, segnale buono è qua. Ah, grande, 9,20, sì. K, ok. Adesso provo l'altra radio a vedere, questo è il K, il 680. Vediamo un po' come va l'altro. Adesso vediamo. Claudio, guarda questa, 1, 2, 3. Questo segnale mi sembra leggermente più forte, vabbè, io sto usando il Galaxy adesso. Vabbè, più forte dell'altro, vero? Vabbè, questa è un'altra radio. Questa è più forte, questa è 25. Questa è l'altra radio, è diversa. Diversa dall'altra, va. Questo è il magno, no? Questo spinge di più, un po' di più spinge fra. Vabbè, ma lì che scende pure con me. Con quanto gatti, Vabbè, allora lascia per quello. Boh, comunque spinge un bel questo. Ah, va bene, nulla. Dice che tu quanto arrivi con questo, prova. Sono 10 watt, io col magnum, guarda quanto è il segnale. Sono 2.30, notti. Col magnum questo, senza aiutino, senza niente. Salute. 9.30, 9.30 a pieno, Truccio. Cava, cava. Avanti, Natalia, riprendi. Ci arrivo subito, io sono qua. Eia, eia. Semino che c'è. Ma poi da te una tariga ti devo dare quelli. Mica ti faccio pagare lo smitter, no. E addirittura anche lo smitter mi dice, tutto sta sciando. Tu fai mettere la portante a Lucia e vieni, quando vieni qua e vedi come mi arrivi. Grazie. Tu sei di Sant'Anna di gomma? Pure la mia è di plastica. Ma è quello che ci ha rotondo. Che se devo mandare la foto. Non piglio un cazzo, non devo dare. C'ha quell'occhiello rotondo, si mette il bulloncino sotto, sì, uno è bloccato, il caldo sotto, sì. Quello è di 58. Quello lì è, quello che ti divide la massa dal positivo al negativo, la così diciamo, poi caldo per un freddo, quello lì. È proprio gusto. C'hai un bel culo, sei nato con la camicia tu. Quindi quanti metri ce ne deve di 58? C'è metri com'è, 4 metri, 3 metri, boh, non so, vabbè. È nuovo, dentro il cassetto era. Non tagliare il cavo che mi serve così com'è. E tutti quanti euro di invece, guarda. Ehi, vabbè, per gli amici quello è altro. Va bene, va bene. Dai, domani te lo passo. Te lo passo domani. Va bene. Guarda chi c'è della radio, dell'antenna della radio, ma noi che ci ambiassami. Ehi, andare! Se è stato a bici buzzare, andate, ma vi comprate la base magnetica nuova, così domani me la avete piazzata, perché c'ho anche l'antenna qua. No, ma sto dicendo, questi occhielli sono uguali, sono simili a quelli dell'antenna della radio, capito? Sono simili, sono molto uguali, se non sono uguali, vabbè, comunque io trovo l'uovo, ma hai usato forse di qualche base magnetica sicuramente. Guardi, se questo qui, ma deve essere questo comunque. Ehi, quello che divide la massa col polo positivo, già è quello che si attacca alla carrozzeria oppure alla base magnetica. Manco spazzo l'acciaio, ma se no con il drabba non me l'avevi pulita, vista. Ma vabbè, là, non me ne sbatte nulla, me la compro nuovo. Il trappano ce l'hai, la spazza d'acciaio che metti dentro il trappano ce l'ho io, a voi. E se ce l'hai, così almeno la puliamo. Capito? Perché vuole pulito una piastra che c'è più il magnete, capito? È tutto rugginoso. Va bene, dai, adesso vado in garage e ti prendo anche la spazzola così te la pulisci bene. Gara. E poi la piattella, tu della calamita la pulisci bene e poi la rimuovi, la prendi da una verniciata anche con nero attacco, va bene. Ma se è plastica, cosa vuoi verniciare? È plastica sopra, Emmy. E allora sopra la lasci così e sotto ti pulisci solo la base magnetica, ti compareggi uno di salesibi che li vendono ai cinesi, quello con la carta che rimane tipo nato, però è larga, ne metti quella sotto e si è risolto il problema. Oh via, già te lo dico anche quello, cazzo. quella adesiva, capito, la fai tre strisce e poi la tagli con la forbice in tondo, adesiva praticamente con l'alluminio, dai, già ti do anche quella. Cara, cara. Andiamo, vai, andiamo. Fammi che questo frango è troppo male forte. Cosa ne dici? Cla. Stavo con questa antenna di gomma qua. E tu perché ci con l'antenna di io? Cioè io ce l'ho di plastica invece. Di plastica la devi avere, non di gomma. Tu lo so, non credo che questa antenna rendeva così. Io invece l'ho attaccata al termosinfone, il cavo, e sto uscendo con quello. Come io ci vuoi anche io di polo, pensando... Bah. Ah, non dirà a nessuno il trucco del termosifone. Ah, la notte tengo per me. Guarda che ho trovato con la commissione io, 120 euro. Spedito e tutto, bello, E cosa? Sì, ciao San Claudio. Oh, io andiamo e andiamo. Sto usando la Mibi più 4, Antonio. E a chi maru, Io mi ho giocato la Brolunga e faccio pure la Brolunga che lo entro qua e poi lo attacco all'MBT4 perché quello che ho io è corto il filo, quello originale. E allora per allungarlo gli ho fatto la Brolunga. Io devo cambiare il filo, lo so, cioè quel filo che si interrompe ogni tanto. Allora mi faccio uscire dalla radio, ho preso, ce lo vuoi vedere, è interrotto proprio al centro, il filo rosso che era interrotto, quando ho tirato mi è rimasto in mano. Sì, io ho anche un filo proprio per fare le prolunghe, ma di lusso è quello. PL Naiba RG58. Dammi l'usi là, è uno buono. Ma è troppo nuovo, che sono amici a Ziggs. Non servono, è inutile che li compri la Fusaro perché non servono, cla. Cazza. Già ce li ho degli spezzoni, ma tocca rompere uno spezzone per prelevare il PL, capito? Sì, vabbè dai, lascia fare a me. È uno spezzone di coso, ma RG58, mi sa che sono 5,50 o 2,75 lo fai, va bene lo stesso. No, io allaggio gli spezzoni, però per cavarne tu devi di fare uno spezzone, un presura. Ce l'ho di H155 addirittura gli spezzoni. Ma non ti qua bene il rotolo lo spezzone, per colpa voi. Io non ne ho adesso. Mari ce l'ho in campagna, ho il tempetto, lo controllare. Io ho tre ghiere, ho di PL. A chi bisogna dire che non abitano ne manco, mi tu li compri nuovi e non avvitano. Ah, no, cioè questo già va bene. Nuovo nuovo, vedi 58, c'è scritto 50 ohm. Nuovo nuovo, non è mai stato usato, capito? Già va bene. Ghere, ghere. Cazzo. Mi posso roba di antennina, va. È vero? È vero, fra. Oh, io esco di notte. Come siamo messi? Ah, ecco. Eravamo messi un po' così. Vabbè. Allora, sono con i pantaloni alla zuava. Ma sempre con gli stessi pantaloni, sì. Ah, oh, questi sono un altro paio. Ciao Gianfra, buonasera. E quanti te ne sei preso? Ma cosa sei? Un zuavo. E passare dentro casa gli andani, beh. Vanno bene. Se n'è andata via mia moglie, gli avevo detto di cercarmi quelli più corti. Più corti, più sexy. Chi c'è? Ma oggi mi sembra tranquillo, ieri non si poteva neanche modulare dai segnali che c'erano. Era una cosa eccezionale. In effetti sì, ho sentito a Giulio stamattina e non ce n'era da stamattina di tutto quel ciabotto. C'era un bailame che non finiva più ieri. E meno male che è una cosa rara quella, perché se fosse tutti i giorni è guai. E se fosse tutti i giorni hai finito di modulare, parli con Mudo. Oppure devi imparare il tedesco. Vedi, così almeno impari un'altra lingua. Da solo o c'è qualcun altro? Ma c'era quello spalliero Pedivella, Franco California, quell'altro cuocuomane, e adesso mi hanno lasciato da solo. E ma domani glielo do io il tanto. Cazzo, stavo parlando per te, ti gioco a difendere un Bielenovo, Lugavo, la spatola manettati la base magnetica, un altro adesivo con l'alluminio. Io non ti sto dicendo niente, no. Domani vuol dire ti pago il caffè. Bravo, bravo. Ciao Gianfra, buonasera. Ciao, ciao. Ma solo il caffè? Una brioche, un cappuccino, qualcosa di più sostanzioso, no, eh? Ah, Claudio, quello è altro. Io ho detto il caffè tanto per dire, e poi quello che vuole si prende. Claudio, allora 4 brioche e 5 cappuccini e il caffè per corretto pure. No, sono dietro. Ah, che tasto, non toccare quel tasto. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ma chi è che non è ingrassato? Trova almeno uno che non è ingrassato. Io, mi ha visto stamattina Claudio, diglielo Claudio come sono, eh? Sembrano di quei ragazzi di 20 anni. Sì. Ragazzi di 20 anni più 40. Vabbè, ma mica ho dimagrito forte, ci avevo la 50 di pantaloni e sono arrivato ad avere la 44, ho fatto il conto e me pure raga. Adesso già stiamo ingrassando fortunatamente. Io invece avanti ieri ho provato ad andare al mare e Renacqua si è avvicinato un tonno e ha detto ma non ci vieni con noi a pescare, a mangiare qualche cosa. A me hanno confuso per uno di loro, ho capito. Un tannetto sembravi. Sì, una cosa un po' esagerata, eh. È veramente esagerata. Un tonno, un peso proprio mai avuto in vita mia. Tutte le pecche sono uscite fuori, per carità. Oh yeah, invece io ho dimagrito di smisura. Mamma mia, come c'ho qua. Io quest'anno non ci vado mai, ne ho vergogna. C'ho tutta la pelle come un vecchio. Cioè perché ti credi giovane? Guarda, c'avevo un paio di gambe io che me le invidiavano tutti, mi dicevano dove andavo, in che palestra andavo a fare i pesi, che sembrava un culturista. Invece io manco un grammo di peso ne alzavo. Oramai siamo da montinaggio. Lo puoi dire. Perlomeno io sì. Io non ne servo più. Natali, non sono un prete, non c'è bisogno non ti confessare perché i peccati che stai dicendo non li sento quasi di quanto sei basso. Già ce l'ho io il confessore personale, anche l'estrema unzione mi ha dato che non sto scherzando, veniva quando ero ammalato a confessarmi, mi dava anche la comunione questo il parroco di qua. Addirittura, cioè sei andato bene allora. Se sono più morto che vivo, sono vivo per miracolo Gianfranco. E tu le dovevi dire, ma non ha capito che Erbamara non i muri. Duia mi voleva già associare a San Paolo, ma non da Brasino, San Paolo di Viale Porto Torres. E il cambio di domicilio? Si voleva fare il cambio di residenza. No, rimanete dove sei che è meglio, una data lì, che c'è ancora tempo per andare a casa nuova. E infatti, già mi rimango qui io. Già sto bene per il momento. Adesso mi accendo pure il ventilatore alla faccia di mia moglie. E così si impara, Rizzi, no? E così impara. Vero qui. Oi, oi, oi, quanto sono amari questi mariti. Per carità. Poi si lamentano quando non escono di sussa. Ma che non le mogli. E che senza peccato scagli la prima pietra. E infatti. A posto, PL, ciao, connettore. Quello che avevo, quello vuolo. Sta lì, poi ti porto il TS2000, va bene? Magari. Ma magari a vera, ma qualche cosa cocci. Poveri noi. Guarda, io ti do volentieri il TS2000 e tu in cambio mi dai una schiena nuova, nuova del pacca, che mi serve. Quella non te la posso dare manco la mia perché ti sta fracassata. Mi ha visto cosa ci avevo Claudio stamattina, diglielo qua. Il busto. No, ma Natalia non lo può tenere, che è un ricevitore, lui deve tenere un ricevitore. Però non metti S2000, già lo faccio andare io. Ma ricordare a andare tu, non sei buono manco accenderlo. Cazzo, io conoscevo uno che accendeva col bastone. E anch'io ho conosciuto quello. A Paulino Gennargento. Ehi, avvirmi, chi sicuro cazzo, boh. Di lusso, bravo, era. Poverino, non lo so. Gappa gappa. Non sto scherzando, ma già fra, c'è una luce, dalla me, poi ci mettiamo d'accordo. No, devo fare un attimino un break. Natalino, no Natalino, ohia. Paulino Gianargento non è quello che abitava in via Rockefeller, perché se lui ci parlava tante volte, non mi dite che anche lui le hanno fatto cambiare residenza. In via Tempi abitava, mica era non vedente questo qui. Sì, era non vedente, lo sto confondendo io, però mi ricordavo via la zona di via Rockefeller, credo. Poi forse mi stia sbagliando, però ci ho parlato tante volte, ma c'è ancora, sì, è tra noi. Questo non lo so, sono da tanto che non lo vedo e non lo sento. È radioamatore. Sì, lo so, se ti sto dicendo che ci ho parlato tante volte, radioamatore, quando eravamo tutti più, non eravamo vicoli sparpagliati, come direbbe Papagone. Siccome in questo periodo di radioamatori ne sono spariti tanti, hanno cambiato molti in residenza, mi hanno detto. Lo sentivo anche alla radio avanti ieri in HF, ma tizio no, tizio Caio ci ha lasciati, carta no, ormai siamo in pochi, quattro gatti. E quindi, sai, ormai chiedo sempre, se faccio l'appello, dai. Ma vedi qualche altro CB o radioamatore mostro, no? Quello che stavo chiedendo, perché mi ricordo che era molto anziano Paulino, e quindi sai, mi auguro comunque che stia bene, ovviamente in salute, eccetera eccetera, per quello che ho chiesto. Ma in HF ho sentito che stavamo discutendo due, che molti non ci sono più, soprattutto in quale zona dell'Alta Italia. Ha detto, ma uno non ho più sentito, no, non c'è né lui né tanti altri. Vabbè, ci nasce e ci muore, purtroppo, quando si è anziani è così, tutti voti. Pazienza. Così. Ha detto bene, si nasce e si muore. e non c'è appello lì, forse l'unica forma di vera democrazia che c'è, perché prima o poi tocca a tutti. E quello sì. Il mio unico rammarico è di non aver preso la patente di radioamatore, superato esami ben più difficili, però purtroppo NISBA non ci sono riuscito. Ehi, Natali, come fai a aggiungere altro? Non ci sei riuscito. Diciamo che non ti hanno fatto riuscire. Ehi, vabbè, lasciamo perdere. Diciamo così. Sì, vabbè, tanto la tua situazione non credo che sarebbe cambiato molto, Natali. Vedi come siamo. Quindi non c'è da cantare vittoria. Sì, lo so, che sono un po' drogato. Vabbè, non voglio fare politica, dai, va. Rimaniamo qua. Sì, vabbè, Gianframo, almeno per la detenzione, cioè quando c'hai quelle carte lì, lo sai, no? A me cosa me ne fotteva? Cioè, non è che a me interessa fare l'arrivatore, però puoi detenere tutto, avere tutto, tutto lì. Poi lo uso o non lo uso, già di una frutti, però quello è che interessa a Natalino. Vabbè, quindi ne parliamo di questo TS2000? Dipende dalle offerte, lo sai benissimo, perché io sto cercando una cosa che tra l'altro non trovo, che costa molto, molto, molto, molto, molto. Non ci vuoi da me, che io ti dia molto, molto, molto, molto. Mi dice Gianfranco, cazzo, non ho una garanzia, cazzo, per carità. Oh, bello quel monitor, l'ho acceso, poi mi fai capire dove è il difetto, a me non mi sei tolando, Beh, lo puoi dire forte, un uomo è una garanzia, perché anzitutto io sono sempre di parola, cosa che di questi tempi già lo sai, e poi c'ho anche un certo senso dell'onore, nel senso che fregature non ne ho mai dato, anche perché quasi sempre do la roba a regalo, quindi anche se la dovessi dare qualche fregatura sarebbe, diciamo, a costo zero, ecco, mentre ci sono quelli che la danno a costo alto. E riguardo al monitor, si può darsi che il cambio dell'aria l'abbia fatto bene, evidentemente, ma anche se fosse, anche se fa quel disturbo che ti ho detto, che cambia i colori, e sicuramente la solita saldatura rompiscatole, quindi una fesseria, però siccome c'è una certa età, e io a chi ce l'aveva ne ho dato uno nuovo praticamente, di prestazioni nettamente superiori, e quindi giustamente sono contento se mi dici che per te va bene, ecco. No, assolutamente, già fatto, davvero. L'ho aperto, l'ho tutto pulito, ho soffiato con, c'è un compressorino piccolo, mi sono comprato anche nel Calverio, l'ho soffiato, tutto pulito, controllato, era tutto attaccato, tutto a posto, l'ho lasciato acceso e non ho fatto nessun difetto, con lui sono a posto, ok, davvero, non sto scherzando. Va bene, parliamo per questo TS2000, la Gianfra, ci sentiamo al telefono, ne parliamo, vediamo un po'. Ma stava scherzando, Gianfranco, ragazzi, ti pare che si venda un apparato del genere? Dio, altro che quello venduto, cioè venduto, mi sbaglio sempre, ho dato. Guarda, a Gianfranco, io pensavo stava scherzando il 5,90, mi sto vendendo il 5,90, sta per uscito, no, io vabbè, non mi faccio niente, qui là c'ho l'altra serie, qui, vabbè, dammo, vai, che te lo vendo. Ho tenuto una settimana già fra, forse 10 giorni. Ho iniziato a fare un giro di telefonato, quello 5,90, quanto? Come? Ehi, il proprietario vuole questi soldi. Dammelo subito, immediatamente, glielo ho venduto. Sì, perché quando no, io non sono, io odio accumulare, capito? L'unica cosa che chiedo è, anche se mo la roba la regalo e che venga usata, cioè che chi ce l'ha poi se ne goda al 100%, perché di qua attualmente, ora come ora, il TS 2000 è sempre fermo, è un apparecchio, l'abbiamo provato ieri, c'era anche Natalino, credo. Perché che funziona, ma poi già lo sai, per me non ci sono problemi, io lo darei prima in prova, mio rischio e pericolo tra l'altro, e quindi sai, dare tutte le garanzie possibili, non, in realtà non è che mi servano per forza quei soldi, non me ne frega niente, mi servono giusto per comprare una radio che tra l'altro non trovo. E quindi capito la storia, non è che sia un maniaco o riccone di quelli che buttano via i soldi, è tutt'altro, però mi piace, quando le cose non le uso inizio a non usarle, le do, ma questo vale un po' per tutto. Guarda, l'anno scorso ho dato la bellezza di un altro monitor di computer che però era anche un televisore, e poi ho dato pure altri due televisori funzionanti. Non mai quante cose mi ha dato, non è quello il problema. Lo so che sei di buon cuore, come faccio io se c'è la roba la donna, non è questo lì a cicischiare. Capito? E vabbè, però non è che si può dare le radio ad un certo livello a chiunque, si danno a chi le sa usare, a chi sa che hai una certa fiducia, capito? Non è che le dai così, tutto qui. Va bene, ci sentiamo per telefono, non c'è problema. Avanti Natali, ripeti. Io lo stesso sono così. La roba, lo sai quanto ne ho dato così? La bizzette. Ma radio nuove, nuove. Mi chiedilo a Franco, chiedilo a Califano a vedere, lui già ne sa qualcosa. Se perdere un Franco, con Franco ci scambiamo anche i pantaloni, non è quello il problema. KK, però ripeto, le cose si danno e si regalano soprattutto a chi veramente ne ha necessità, la usa, non che gliela dai abusivamente, e magari tu ti dici di una cosa che magari un domani ti può servire, uno che ne ha bisogno, uno che ne ha necessità, uno per aiutarlo perché non ce la fa a comprarsela, e uno che merita, ecco, altrimenti anda a fare già una puta serma. Infatti, io ho dato un sacco di roba. Ma infatti anch'io, quando io preferisco sempre versarle la radio, nel senso che mi faccio fare una quotazione, ovviamente la quotazione è quello che è, anzi no, l'ultima volta devo essere onesto, dato che non mi ricordo neanche cosa ho dato. Il cos'era il 7000, ricordamelo, Franco, l'apparato l'IC, cos'era l'IC 7000? Sì, c'è quello del mio l'IC 7004, sono nuovo, impeccabile, poi non perché sei qua, ma le radio che tu sono veramente nuove, trattate bene, usate con criterio, con veramente molto molto nuove, anche il 790 era nuovissimo, impeccabile, il 7004 era una favola, nuovo. E appunto era il 7004, quello, cioè il monitor grande che vedi la frequenza, e in più avevo dato un apparecchio che era in garanzia, ne avevo preso tre, adesso che li ho un po' usati, sono digitali, no, DMR, ma veramente, guarda, uno è spento da più bussa due mesi. Ieri mi ho portato a Bade Urbara il portatile, guarda, un altro po' e lo sfascio, perché mi sta veramente sulle palle. È un oggetto che vendono, credo, 200-250 euro, ma neanche la metà, neanche il confronto con le radio che uso io, guarda. Mi ha dato una stizza, uno l'avevo già dato, il veicolare. fare, e me ne è rimasto un altro, che l'avevo pagato 350 euro, credo che me l'abbiano valutato 100-120 euro in garanzia, proprio preso da loro e restituito a loro dopo 2 mesi, quindi figurati. Però quello che avevamo, quello che mi serviva, e di lì ho detto va bene, per tenermi questo bidone preferisco rimetterci anche su lì, dai. Io ho capito già, fratello, ripeto le cose anch'io, io ho venduto delle radio amatoriali, ma ho regalato veramente di cuore ad una persona che ci tenevo tantissimo, ho regalato tutto un parco di radio vintage da paura, capito? Con tutti i suoi microfoni da tavolo, tutto regalato proprio col cuore, veramente, senza nessun, per carità, regalato ad una persona che ci tenevo tantissimo, che abbiamo una grande amicizia, gli ho regalato. Quindi non devi stare lì a contare fino a 10, quando una cosa devi fare la fai e basta, la fai con la testa, con l'anima e con tutto. Cosa devi vendere? Va bene, avanti Natali, dai, prenditi una sopra, a parte quella roba lì, poi domani mattina ti chiamo, intanto vuoi scendere a Sassari domani, devo portare l'alimentatore a Franco, che è dentro l'armadio. Quando la carbonati si è spento, non ha acceso più, adesso glielo do, me lo faccio mettere a posto della Daimon. Solito, vedi, sai di cosa sto parlando, no? Con l'alimentatore della Daimon, si è spento, non ha più acceso. Prima accendeva a colpi, un po' accendeva, un po' no, un po' accendeva, un po' no. Poi non ha acceso più, adesso lo do a Franco, lo faccio mettere a posto. Sì, perché alla fine è una fesseria, già lo sai, di lì è qualche condensatore o qualche diodo che sta rompendo le scatole. Avesse almeno fatti catto, quello su 35, credo, se non ricordo male, che ne ero, avrà lavorato quando era al massimo della potenza a 20 ampere proprio, 15 ampere al di sotto delle sue potenzialità. Ma sicuramente qualche, a livello di diodo, di cosa, io guarda, di quelle cose proprio non ci metto mano, non me lo sogno neanche, perché oramai sono mezzo cibio, non c'ho tempo, non ne ho voglia onestamente, e non, quando vedo così prendi e porta via, capito? Perché non ho più voglia di appentarmi ore lì per la vista e così via. Quindi li faccio fuori senza pietà. Allora cosa? Adesso mi domani mattina lo faccio. Faccio controllare luce a tempo, voglia, capacità e anche bravo in queste cose. Io non ne ho né voglia e non sono neanche bravo a farle, la verità, quindi ognuno suo. Avanti, Tartalì. Infatti, è la voglia che manca. Io pure facevo tante cose, microfibro, le antenne, gli animali di bocco, In campagna d'arte non fai attacchi di polli da una barca d'arte. Quelle cosette che sappiamo fare di elettronica, quelle piccole cosette le facciamo, altre le lasciamo fare a chi ha veramente la capacità e la bravura di farle, non è che ti puoi mettere a fare fesserie, capito? Tutto qua. E infatti, uno dei microfoni è già adattato. Io ho sempre, tra l'altro, anche un'antenna nuova, mai usata, che è dell'apparecchio che ho professionale HF Nautico, ed è buttata dove era quell'alimentatore lì, l'alimentatore dove era quella fare, come si chiama, non mi viene, piastra magnetica, dai, quella cosa lì, dell'antenna. Questa antenna c'ha un basamento d'appoggio, c'ha una molla qua che è in acciaio inox, ho guardato quanto costava, 200 euro, ma è lì buttata, perché dopo me la metto, mi caccio un altro carro, occorrerebbe un lince, di lì, allora, sul lince di lì si può piazzare bene, vedi? Dove sono io? No, il lince, ho detto sul lince, mi fatelo dire da Natalino, cos'è il vecchio lince? È un altro carro militare. Ah, io sono fuori dal mondo con queste cose, non lo so. Vabbè, comunque. Va bene, va bene. Dai, datemi 10 minuti che devo fare un paio di cosette e poi già rientro, ok? Io sono qua in ascolto. Riprendi già. Ok. Ma Natalia, se mi attacco con l'antenna alla macchina, minimo, alla prima accelerata me ne strappa la capotta. Non te credo. Che te. È addirittura nautica e quindi deve essere bella pesante. Ah, ma la menti questa voce, poi in confessione siamo. Su Natalia, aumenta un pochettino, normalmente io dico sempre abbassare, ma insomma in questo caso ti dico aumenta un qualcosa, che ne so, avvicina la bocca al microfono. Perché il microfono normale? Ma quando parli vicino si sente, anch'io ce l'ho normale, però non è che lo tengo a 10 metri. Io ho tutto nuda proprio, 27. Che rimacchia lo zucchero, ho tutto nulla. Appunto, è normale che non siete baristi, sennò guai. A quello senza, a quello con 5 cucchiaini, all'altro neanche lo so. Oh signor. Adesso vedi, io ti ho posteggiata qui una macchina fotografica che di valore ci saranno più di 1.000 euro, ci saranno, ma non la sto usando perché intanto non la potevo usare, dove andavo? C'è il teleobiettivo, il grandangolo, che è una macchina fotografica, una Canon, è bella, e ce l'ho lì ferma. C'ha anche l'affare per mettere, invece che una di batterie ne metti due per prolungare la durata, di batterie viene a tre perché una si era rovinata, ma dimmi tu, ed è ferma lì nella borsa, e chi la usa? Non puoi andare in luogo da chissà quanto tempo, prima già ce l'avevo la passione. Ma sembrerebbe quasi Natalino una coincidenza, manca a farla apposta visto cosa succede. Tu hai detto che c'è a fianco una macchina fotografica e anche io ho una macchina fotografica che devo cercarle l'alimentatore. Questa invece è una Samsung mai usata, perché era un regalo che hanno fatto a mio fratello, però talmente complicata che non se ne comprende un tubo. Quando fare una foto, praticamente, che ne so, se fotografi tipo un animale che scappa, quando a regolarla tutta come andrebbe fatto, l'animale se ne è andato da un pezzo, capito? E quindi non le piace a lui queste cose con tutti questi rigori che ti fanno perdere tempo. Ed è grande, c'è altro obiettivo, tutto qua, non so se neanche più di uno l'obiettivo. E quindi a volte le cose un po' complicate poi vanno a finire che non si usano. Ah, questo è facile da usare, c'è anche l'autoflux, se gli hanno accorto di cose. È veramente bello. Se da vicino ho fotografato un'intera facciata col grandangolo, c'è un grandangolo pauroso. Se qualcuno chiama dimmelo, perché io ho lo squarciere, come l'ho messo ieri, è quasi a 6-7, vedo dei segnali sotto, ma deve essere dopo la propagazione. Anche io ho lo squarciere, vedete, da ieri è così. Aumenta la voce, Natalino, mettiti un imbuto quando parli, avvicina un microfono e ti metti l'imbuto. Aspetta. E se no c'è anche il pericolo che non faccia il guai e quelli pensano chissà che cosa. Ecco il motivo perché non mi piace usare il microfono in palmari, proprio per quel motivo lì. Ah, così bene va. Sì, va bene, si sentono tanti rumori che prima non si sentivano. Si sente scricchiolare, passeggiare, quello che il negozio c'ha di fronte che sta bisticciando con qualcuno. E qui non si sente nulla, dimmi tu. Natalino, Natalino. E così è. Ma poi cosa fare? Claudio te l'ha fatta vedere, sì. Te la sta ancora lucidando. Oh, l'ho smontata, è già qui ed è già smontata. A quanto ho fatto a smontarla? Cata uno di quei punzoni mi si è piegato, smontandola. È uno di quei punzoni. E quali sono i punzoni? No, no. Cosa sono sul PL? Dove sono? Ah, oh, per usarli come leva, mi. E siccome era fino fino lo usavo quello lì e mi si è piegato. E vabbè. Perché era fino fino, no? Ah, ok, beh, basta usarne o no. Non ho più dato allo scopo. Ah, è così. Ma Mastro Giulio, niente, no. Non si è fatto vivo. Negativo, stamattina l'ho sentito. Ma oggi sta fremendo perché c'è l'Italia oggi che gioca. Con chi gioca? Con il Brasile? Con l'Austria, mi sa. Io già non capisco un tubo e quindi potrei dire anche fesserie. Ma gioca in Italia o all'estero? No, in Inghilterra, penso. Ah. Oh, no, no. Proprio di quelle cose non ne comprendo nulla, ma nulla un bel mi. Non mi parlare di calcio perché sono zero, proprio più zero non si può. No, io già ne capisco, è che non sono tanto tifoso. E io per niente. Soprattutto poi da quando è diventato un commercio di quelli spietati, no. Niente. E vabbè, ognuno il suo, come sempre. E infatti, non si è sentito manco Marco, vedi? Quello è diventato l'uccello di bosco. Già c'è, ma è a letto. A letto guardandosi qualcosa. Oramai è sempre coi cazzo. Ieri stava parlando con noi. Hai sentito cosa stava facendo. Quindi è così, oramai. Sotto c'è una bella voce di una bella signorina spagnola. Non so se la senti. Alto lo squelch, vediamo un po' se la sento parlando. Adesso c'è un nuovo fischio. Proprio quando c'era la cicca di mi corazon, non me la fanno sentire. Così è. Siamo nati per soffrire. Poi se ci sono di mezzo le donne soffriamo ancora di più. E l'ergiate che ci ha fatto Giulio quando gli dicevo, ma tu me lo potevi dire che erano così, che finivano per comandare loro. Attacca a ridere Giulio. E c'era mia moglie qua. Infatti gli diceva bravo Giulio, perché Giulio dava ragione a lì. Mi alzava. Beh, torto non ci avrà di certo. E così capita. E comunque una volta fatto il passo, sai, in quelle cose lì bisogna anche imparare a sopportarsi, perché sente gente che si innamora dopo quando ha compiuto 80 anni eccetera, ma hai fatto il più, fai anche il meno. E infatti a me mi fanno ridere queste persone che si separano e hanno 80 anni, cosa ti separa 80 anni? Ti sei supplicato per tutta la vita, ho supplicata e dopo a 80 anni ti accorgi che non lo ami più, come dicono loro. Infatti sono quelle cose strane, quasi incomprensibili. Già fa poco casotto quel volatile che c'è lì, ma lo vuoi un gatto? No, che se lo mangia. E appunto te lo do un gatto, se vuoi te ne do anche due, se no si azzuffano per mangiarselo. E deve essere quello di coso, di Dal Piero quello lì, no? No, questo è un canarino, lì era un passero. Passero solitario che va per la campagna. Quell'altro non me lo ricordo perché ci avevano talmente ossessionato con queste poesie da imparare a memoria che veramente ci hanno più rincoglionito che altro. Mimi, adesso si sente. Ma questa è di quelle che picchiano. Oh signor, se tutto va bene siamo rovinati, Gianfra. Infatti. Se tutto va bene siamo decisamente rovinati, però quindi speriamo che non vada né da una parte né dall'altra, che rimanga in mezzo. Anda bene Meda. Franco stava parlando qua e è sparito anche lui. Califano! Già parla poco in fretta questo. Sentito l'hai Natali. Una macchinetta. E la saluta. Quanto tardi fanno Natali forti? No, ma è colpa dell'antenna mia che è bassa. Mettetene un'ancora più alta così fai. Così fai contenti quelli là a mo' di sfregio, no? Cos'è? L'antenna che dà fastidio, sì, un attimino che ne metto una che non dà fastidio, vediamo i tiri, una di 10 metri, a vedere. Forse gli entra perché c'è, perché proprio perché è più bassa di quelle antenne TV, e gli entra per quello. Poi sono antenne vecchie, avranno tutto l'impianto messo male, invece quelle che ho io della TV sono quelle moderne del digitale terrestre proprio, c'è anche l'amplificatore sul palo, c'è tutto, ed è sul palo di loro. Infatti io ho provato anche col mio televisore, ma col mio televisore nessun canale di tubo, nessuno, perché io accendo il televisore e schiaccio la portata, aspetta un attimo. Sì, ma quelli sono rompipalle seriali, capito? Quindi lasciali perdere, tanto non mi cavo il piede da quella gente, ignorante, nata, ignorante, se ne muore. Cosa devi fare? E infatti, se loro avessero cambiato le antenne e controllato magari il difetto che hanno, magari sono anche fradicemi, una volta Franco ne aveva una di antenna che disturbava anche con l'omologato. Beh, gli metto mano io sul tetto, gli ho fatto l'antenna nuova TV a Franco Califano, manco il 140 quando metteva la portante disturbava più. È ovvio, quando si fanno le cose come si devono fare, ma questi non vogliono neanche mettere mano alle loro antenne, neanche gratuitamente, quindi cosa le vuoi dire e cosa le vuoi fare, più che mandarle in quel paese? Quello lì che non disturbo più, quello che veniva a suonare il campanello, quello lì l'antenna non c'è più, deve essere la spostata e se l'ha fatta nuova, sicuramente. sicuramente. Però il fotografo, quello che lavora nelle TV private, l'altro giorno mi ha trovato perché è successo un incidente qua, no? Ed ero giù a vedere cosa era successo, quello del piccione, tanto per intenderci. E mi ha detto, Catta, lo sai che mi stanno disturbando, torno, ma tu parlando? No, gli altri non sto parlando. Se dovesse venire gli dico a vedere, a darmi il nome del padrone di casa, così li posso causa aprire. Ma mi sa che tutti in quei palazzi lì hanno tutte le ruderi di antenne, questa roba vecchia, una coricata sull'altra, tutte vicine, quindi è così. Ehi, già lo so, saranno tutte marce. Se una me ne è caduta qua in terra, per poco me ne cade in testa, è caduta sulla strada l'antenna, deve essere c'era il tubo marcio e ne c'è da questa antenna TV completa. Per quello non dico niente, no? Solo noi dobbiamo stare attenti, loro possono anche ammazzare le persone. Ti giuro, mi ha mancato di poco questa roba, è necessa dal tempo. Vabbè, è così, che ci vuoi fare Natalia, cosa ci vuoi fare? A quello lì che ce l'ha portata, quello per esempio, siccome è un uomo anziano, il padrone di quell'antenna lì, mi ero offerto io a fargliela io l'antenna, a mie spese addirittura, e non avrebbe disturbato più. Non mi ha voluto far salire, a chi era la magagna che c'era altra gente attaccata a quelle antenne. E lo so fatto l'antenna condominiale. Oh, addirittura è il genero, mi sembra, di questo qui che abita un vicolo più avanti, si è fatto passare il cavo da quell'antenna per della televisione. Ho sentito che t'hanno chiamato. Ok, mi c'è il cane qua. Cavolo. Oh signore, mamma mia. E poi dice che l'ha fatto lui, mica un tecnico l'impianto, capito? Chissà come ti hai fatto l'impianto di Sant'Eo, magari adesso si hanno chiamato un tecnico e gliel'ha fatta come si deve, perché se non è più venuto a suonare evidentemente non lo disturbo più. Il telefono è andato, se ne l'ho chiamato e se n'è andato, sì, non risponde. Non sapevo se c'era domani mattina per portarle quell'alimentatore. Tariffo, cazzo parato dici? E se non è che è uscito magari, hai capito? E non risponde perché non c'è. Allora signori, cosa volevo dire? Meglio va la radio adesso là. Ma è grande, non andava bene anche prima, non c'è problema. E Gianfranco non mi sentiva, perché dice che il microfono normale lo tenevo lontano, allora ho preso e ho cambiato questo, perché già non mi piace avere il microfono palmare. No, va bene questo, ottimo. E Gianfranco è andato a papare. No, sono qua, stavo ascoltando di qua che c'è una spagnola litigando col marito. Oh, ah, questo è il cornuto. Sì, sta parlando, guarda quanto è nervoso, parla velocissimo. Compagnero! Oggi c'è l'Italia, c'è io me la guardo. Infatti alle 8:30 chiudo tutto e mi guardo l'Italia, perché dice che inizia alle 8:30. Così è chiaro. Io alle 8:30 inizia il collegamento, alle 8:30 finisce il telegiornale, poi 9:15 alle 9 inizia. Alle 9 inizia la partita, 9:15 così. Io chiedo un'occhiata, ma non è che sto seguendo niente. Oggi non c'è voluto venire nessuno, se no. Era stato già ai fornelli, invece ero fratello era male, stanco, non ci vuole salire, e qui per niente. mio vicino è andato dal Genoa a vedere se era partita a Genoa. Siamo di solito, siamo sempre assieme. E nulla, per me è giornata sabato normale come tutte le altre. Domani sì, domani a pranzo sono